Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo a parlare di biciclette pieghevoli stasera. Ieri abbiamo cercato soprattutto di capire qual è, diciamo così, il profilo tipico di utente di questo mezzo che è così promettente per la mobilità urbana eppure così poco diffuso. Più o meno l'1% delle biciclette vendute ogni anno nel mondo sono biciclette pieghevoli, quindi insomma qualcosa tutto sommato che non va ci deve essere, se no sarebbero di più. Questa sera allora parliamo di tecnologia, in particolare di un progetto davvero rivoluzionario di bici pieghevole anzi a pedalata assistita, quindi con tanto di motore elettrico che collabora, diciamo così, con le gambe del ciclista, rendendo l'uso della bicicletta insomma molto più piacevole e molto più rilassato. Parliamo di un progetto messo a punto da Tecnologie Urbane, che è una startup nata dall'omonimo studio di design di Alessandro Belli, che è in linea con noi. Buonasera Belli. Buonasera. Allora, 3 anni di studio, oltre 1,5 milioni speso in ricerca, che ha portato a 5 brevetti registrati e vari premi, premio Legambiente, premio Marzotto, addirittura una segnalazione al Compasso d'Oro. Insomma, ci descriva questa specie di bici dei record, ci sono un sacco di numeri notevoli. Sostanzialmente noi abbiamo lavorato sull'abbassare il volume da chiusa della bicicletta, abbassare la quantità di materiale per fare il telaio e quindi anche il peso complessivo, e quindi siamo arrivati a un terzo del volume occupato dalla bicicletta pieghevole record. Diciamo che il record precedente era 90 litri, voi state nei 30 litri. Siamo su 40x50 la misura chiave è quanto è sottile, perché siamo intorno ai 12 centimetri. Ok, benissimo. È un pacco piatto, diciamo. Una valigetta. Le più piccole che ci sono come spessore sono 30 centimetri. Ok. È un cubo, sono dei cubi. Ecco, un aspetto che insomma noi non abbiamo un'immagine, non possiamo proporla in radio, però che colpisce subito vedendola è che ci sono delle parti rigide, ma ci sono anche dei tiranti, no? Per dire quanto avete lavorato sul design. Sì, sul design e poi sull'ingegneria, perché molti sapranno che i ponti strallati, no? I ponti sospesi, sì, realizzano delle strutture molto ampie, molto lunghe, e però con quantità di materiali molto minori rispetto ai ponti romani fatti di pietra o di cemento armato, eccetera. Quindi questo è un sistema classico dell'ingegneria di fare, certo, cosiddette tensostrutture. Certo. No? È una tensostruttura. È una tensostruttura. Però diciamo l'innovazione più importante che voi stessi insomma considerate tale è legata alla filiera. Voi immaginate una filiera completamente diversa per questa bicicletta pieghevole rispetto alle filiere tradizionali. Infatti, per riuscire a ridurre il volume di pesi, che forse è uno dei limiti di cui dicevo all'inizio, perché è vero che sono pieghevoli queste biciclette, però anche perché qui si parlava del 90 litri del record, ma la maggior parte sono sui 150 litri. Sì. Comincia a essere un frigorifero. No, d'aereo, no? Infatti. No, quello di cui ci siamo resi conto è che non è un caso che le bici pieghevoli non riescono a essere piccole e compatte, perché non è che sono tutti scemi quelli che progettano le biciclette, cioè, chiaramente. È una questione di filiera produttiva. Quando tu hai disponibili sul mercato delle componenti, che fai? Per fare una bicicletta pieghevole prendi un telaio incernierato e ci metti su tutta questa roba. Allora, la questione è che tu non puoi, con questo tipo di filiera e di componenti molto artigianale, diciamo così, o di assemblaggio, ecco. Di assemblaggio, esatto. Non puoi raggiungere delle compattezze, perché non c'è niente che si adatta a nient'altro. Quello che abbiamo fatto noi è di progettare tutto ex novo. E infatti, quindi tutta la componentistica è tutta componentistica ad hoc. Ecco, cioè insomma diciamo che se la bicicletta ripieghevole è nata come una bicicletta a cui hanno aggiunto una cerniera o due, voi invece avete detto no, una bicicletta pieghevole deve essere ripensata da zero su altre basi sostanzialmente. Perfetto. No? Per proprio uno studio anche ergonomico, abbiamo come dire astratto la funzione bicicletta e l'abbiamo montata su una struttura completamente diversa e nuova. E la parola magica, diciamo, del cambio di filiera è filiera automobilistica, giusto? Filiera automobilistica, infatti. Quanto pensate che potrebbe costare una volta che si fosse attivata questa filiera, quindi su scala industriale? Abbiamo fatto un po' il conto che costerebbe quanto 100 grammi di un iPhone. Ah arrivederci. Mettiamola così. una cosa tanto altra. Una cosa così. Va bene, d'accordo. Grazie Belli. Grazie tante, arrivederci. Va bene, ci fermiamo qui. Grazie di essere stati con noi. Ci sentiamo lunedì.